Ecco, adesso passo la parola all'ultimo relatore della giornata, il dottor Vielmetti, che viene da Vienna, è in servizio scientifico presso l'Istituto für Institut für Judaistik all'Università di Vienna, vecchio amico di casa per noi e testimone, ancora parente di casa, noi diremo, vero, di famiglia trentina, cresciuta poi in Austria. Non so se là forse si chiamano Filmetti invece che Vielmetti, come da noi si chiamano, ricordandoci un amico comune e primo cugino che era collega nostro invece all'insegnamento del seminario teologico, l'indimenticabile Don Bruno Vielmetti. Ma l'accidente dei cognomi può accadere in tante maniere. Ecco, io verrei chiamato Rocker nella pusteria dove la famiglia ha origine, ma a Trento sempre chiamato Roger, e quelli della pusteria non possono averne a male. Ecco, così anche nel caso nostro può succedere. Ecco, gli do volentieri la parola con riconoscenza per il fatto che ha accettato di assumersi la tematica di una considerazione un po' più larga su quelle che sono, che erano in quel tempo, le comunità ebraiche nella Germania meridionale, argomento anche che per noi è molto lontano e che occorre, ha bisogno di uno studio specialistico e che tuttavia ritengo indispensabile per l'interpretazione, per la conoscenza e la valutazione delle notizie e anche per la scoperta di quello che è il pieno significato delle fonti che noi abbiamo sul caso Simone di Trento. Grazie, dottor Vielmetti. Signore, signori, non è un compito facile o piacevole di far seguire dopo una comunicazione di documenti di valori e interessanti e proprio particolari, di far seguire una esposizione piuttosto generale. Dunque, si tratta della situazione dell'ebraismo al di là delle Alpi. Il nostro punto di partenza è l'anno 1475. Ci troviamo in un periodo della storia degli ebrei ashkenaziti contraddistinto inizialmente dallo sterminio di molte delle loro comunità in seguito allo scoppio della peste nera negli anni 1348-49. Gli ebrei furono accusati di avvelenare i pozzi, la terribile accusa generata dalla mentalità irrazionale della plebe che provocò la strage di un numero tanto ingente di ebrei. Si parla di 300 insediamenti che furono annientati e che non ebbe nella maggioranza dei casi l'opportuno freno ed impedimento di parte dei governanti. Qualche eccezione conferma che i principi governanti erano colpevoli e che un controllo della collera del popolo sarebbe stato possibile. I patrizi di Ratisbona e il duca Alberto II in Austria riuscirono a difendere gli ebrei. Le comunità sopravvissute si trovarono in vantaggio rispetto alle altre. Un cronista cristiano accenna proprio nell'anno 1349 al fatto che non conosceva altra città nelle contrade germaniche dove gli ebrei fossero sì numerosi come a Vienna. Un'altra conseguenza del disastro fu il sorgere di un nuovo centro di erudizione nell'ambito austriaco, dopo l'abbandono della Renania da parte degli studiosi e dotti ebrei. Sembra però che la ripresa della vita ebraica fosse avvenuta assai presto in molte regioni dell'impero. Tuttavia questa ripresa non significò il pieno recupero della posizione precedente. Si verificò infatti un cambiamento essenziale nelle attività degli ebrei, in particolare per quello che era il loro mestiere principale, il negozio cosiddetto feneratizio. Il divieto ecclesiastico di prestare denaro su interesse andava sempre più in oblio e i cristiani iniziarono ad apprendere il modo di sostenersi reciprocamente. I nobili non ebbero più bisogno del capitale ebraico, gli ebrei persero il loro monopolio. La loro attività venne ridotta a piccoli crediti di consumo, come nella terraferma veneta, dove gli ebrei, per ottenere le condotte, furono obbligati a contribuire ai banchi dei poveri di Venezia e a sostenerli con i loro capitali. Dalla posizione economica dipendeva lo stato sociale e giuridico, esso dunque peggiorava considerevolmente. Mi pare opportuno inserire una nota sull'immagine dell'ebreo nella società contemporanea. Dal punto di vista del signore o del governante, egli era nient'altro che un soggetto di tasse e imposte. Si sa che gli ebrei collettivamente erano una regalia talvolta gelosamente custodita. Del resto il Signore non era troppo preoccupato da considerazioni di carattere religioso o umanitario. A Massimiliano I si attribuisce l'espressione giusta la quale gli ebrei sono come galline che devono deporre uova d'oro. Solo quando il capitale degli ebrei cessò di essere l'unica fonte di contanti, proprio nel corso del 400, la regalia di tenere judeos perse gradatamente il suo valore originario e il principe fu sul punto di disfarsene. L'immagine dell'ebreo nella società cristiana in generale è più difficile di rilevare. Questa società era in maggioranza contadina e anche poco colta. L'elemento ebraico vi si aggiunse come un settore quasi borghese e istruito, che sembrava alquanto privilegiato e allo stesso tempo discriminato e dipendente dall'arbitrio dei governanti. La maggioranza degli ebrei veniva identificata con il mestiere odioso dell'usuraio. Un ruolo rilevante era costituito anche dall'invidia dei cristiani per un'esistenza, quella degli ebrei, da benestanti, apparentemente priva di qualsiasi lavoro duro. Invidia e odio altrui facevano parte integrante della posizione degli ebrei, che ne erano del resto perfettamente consapevoli. Il rabbi Israel Israelin, da Wiener Neustadt, scrive in un suo responso: l'usura è il mezzo di procacciarci il nostro proprio sostentamento, ma tutto ciò che i governanti chiedono da noi, lo chiedono conoscendo e approvando la nostra usura. Il suo maestro, il rabbi Shalom di Neustadt, osservò acutamente: se la Torah lui parla dello studio della Torah tutto insieme. Se la Torah è più forte in Germania che non altrove, questo è perché gli ebrei qui si mantengono ricevendo l'usura dai cristiani e non sono obbligati a lavorare. Perciò hanno abbastanza tempo libero per studiare la Torah. E chi non studia sostiene con il suo guadagno gli studiosi della Torah. E se ora i cristiani, ancora la citazione, e se ora i cristiani stanno per vietare l'usura, questo è dovuto al fatto che molti non sostentano gli studiosi della Torah. Allora una punizione divina. Ecco, un altro miracolo, questo è di nuovo del Shalom di Neustadt, Ness, ecco un altro miracolo nel miracolo, che gli stessi cristiani siano già propensi a ricevere denaro sull'usura, e ciò è indubbiamente la volontà dell'Eterno. L'esistenza dell'ebreo medievale è dunque determinata dalla sua dipendenza dall'essere divino, e l'osservanza religiosa è difatti centrale nella sua vita. L'ebreo non concepisce se stesso in maniera diversa da questa. Più strano appare invece il concetto di usura quale strumento della provvidenza. Per l'ebreo tutta la storia non ha altro scopo o contenuto che l'adempimento alla volontà divina da parte del popolo di Israele. Le cronache medievali ebraiche hanno una formula fissa per spiegare la ragione delle numerose disgrazie e persecuzioni. Abbiamo sentito già all'inizio della sua lettera per Avoteno a Harabim, per, in latino si direbbe per moltitudinem peccatorum nostrorum, per le molte nostre colpe. Sì, sì. È una formula che sempre si ripete. I cronisti la prendono sul serio, considerando non solo la malizia dei goim, che non le proprie colpe ed una conseguente e meritata punizione divina. Shalom e Easterlein, accanto ad alcuni altri, rappresentano la scuola austriaca degli studi talmudici, il cui primo maestro fu un rabbi Meir ben Baruch Halevi, arrivato dalla Renania a Vienna negli anni 60 del 300. Gli studiosi di questa scuola contribuirono alla fama delle comunità di Vienna, di Krems e Neustadt. Il più celebre fu quel rabbi Israel chiamato Easterlein, il cui nome è da mettere in relazione con quello di Marburg, di Stiria e Wiener Neustadt in Austria. È dunque il primo Morburgo, un nome poi molto frequente in Italia. Visse fra 1390 e 1460. Sua madre e un suo zio furono martiri a Vienna nel 1421, nella famigerata Xera di Vienna, e autore di due collezioni di responsi che godono massima autorità. Inoltre abbiamo una relazione scritta da un suo discepolo, un certo Josef, che contiene alcuni cenni della sua vita e in particolare le sue pratiche religiose, in quanto l'erudizione ebraica è in fondo una mescolanza di giurisprudenza talmudica e della sua applicazione pratica. Il manoscritto si trova alla Staatsbibliothek, alla Biblioteca di Monaco di Baviera, ma fu pubblicata la prima volta nel 1904 è una nota marginale in questa esposizione, l'Ecclesiocher di questo Joseph, si trova anche un cenno alle nostre contrade, racconta di un rabbino, Jacob Weil di Augusta, che sempre che era abituato a bere vino da Termeno, Yayin Tramini. Allora è anche rimarchevole, è un manoscritto del tardo 400. Malgrado il cognome Marburg, Isselin era originario probabilmente da Ratisbona, in questa città dove agli ebrei era stata risparmiata la strage della peste nera, fioriva da lungo tempo l'accademia più illustre, allora una, noi diremmo più adeguatamente una yeshiva, una cronaca latina del 1478 racconta: Hinque factum est ut ipsi reliquorum in nazione germanica iudiorum veluti doctores et patres evaserit. E chiama quella yeshiva quasi gymnasium quotam. È una fonte ebraica più di 50 anni prima, allora piuttosto nell'inizio del 400, dice che la lingua degli ebrei di Ratisbona era più pura di quella degli ebrei austriaci. Parla di Bnei Regensburg e di Bnei Österreich. Il Ducato d'Austria non dovette rimanere un'oasi nella diaspora ebraica. I successori di Alberto II, chiamato Fautor Iudeorum, si dimostrarono meno favorevoli riguardo agli ebrei. L'atteggiamento di Alberto V dal 1411 duca, poi nel 37 re di Boemia ed Ungheria e nel suo ultimo anno di vita 1438-39 re germanico, questo Alberto fu un anello di una catena di circostanze sfavorevoli che culminarono con l'espulsione sanguinosa degli ebrei da Vienna e dalle altre città del Ducato. Abbiamo già sentito qualcosa, perché questo era un po' il background di Hinterbach da Vienna. La professoressa Walsh ha già raccontato questa storia. Allora, un anello in questa catena era Alberto V, il duca d'Austria. E poi vi sono anche altre circostanze da un sfavorevoli, tuttavia ragioni e cause sono piuttosto oscure. Da un canto l'animosità contro gli ebrei andava aumentando, circostanza che trovò espressione in un parere dato dalla Facoltà Teologica di Vienna prima del 21. Poi c'era poi la formazione di un movimento anti-ecclesiastico ed ereticale, cioè degli Ussiti in Boemia, che faceva nascere il sospetto di una congiura fra eretici ed ebrei, ambedue nemici della fede cristiana. Allo stesso tempo si tramandava la storia della disegregazione di un'ostia a Enns, non a Vienna, ma verso Austria Superiore, nella città di Enns. Si ripeté dunque l'Alilat Lechem, cioè che rappresentava accanto all'Alilat Dam, omicidio rituale, l'accusa classica contro gli ebrei. né mancavano motivi prettamente economici, dato che le finanze ducali avevano un gran bisogno del capitale e degli immobili posseduti dagli ebrei. L'espulsione ebbe luogo a Vienna fra gli anni 1400 e 1420 e 1421, trovando il suo culmine in un rogo di più di 100 o più di 200 persone, uomini e donne, avvenuto nel marzo del 1421. I cronisti ebrei la chiamano la Xera di Vienna. Si svolse così la prima grande espulsione del secolo XV, mentre gli insediamenti negli altri domini della Casa d'Austria, come anche le comunità sparse nel resto dell'impero, rimasero indenni. Furono in grado di conservarsi ed alcune ebbero notevole fioritura. Le cronache registrano tuttavia una lunga fila di calamità, dando una tristissima immagine del destino ebraico. Gli ebrei vennero espulsi dalla Sassonia nel 1432, da Spira e Zurigo nel 1435, da Magonza nel 1438, da Augusta nel 1439. Essi furono imprigionati a Costanza e nei dintorni nel 1446, nel 1450 Luigi il Ricco li cacciò dal Ducato di Baviera. Lo stesso accade nel Vescovado di Würzburg nel 1453. Essi furono espulsi dalle città di Bruna, Olmütz e Schweidnitz nei paesi della corona boema negli anni 50, come anche più tardi da Erfurt, Neisse e l'elettorato di Magonza e così via. Verso la fine del secolo seguirono persecuzioni più generali, come per esempio a Mecklenburg e Pomerania. Finalmente l'imperatore Massimiliano decretò l'espulsione degli ebrei dai suoi domini di Carinzia, Carnia. Situazione che dovette perdurare fino al periodo della tolleranza nel Settecento. Similmente gli ebrei furono espulsi dal principato arcivescovile di Salisburgo. Anche questo decreto rimase praticamente in vigore fino all'Ottocento. Comunità molto famose dovettero abbandonare le città dove si erano insediate da lungo tempo. Questo accade a Norimberga, che era una delle più ricche in Germania nel 1498, e persino a Ratisbona, l'antica, numerosa e dotta comunità nel 1519. Lo sviluppo degli eventi nelle città libere dell'impero era paradigmatico per il destino degli ebrei della Germania. Decadenza economica della città e diminuzione del capitale ebraico fecero perdere agli ebrei la loro posizione sociale. I cittadini li emarginarono e fecero loro sentire che erano dei veri e propri estranei, sia per religione sia per professione, dato il perdurare di un'immagine negativa e quasi sinistra dell'attività bancaria. Mi pare che qui c'è una differenza fra Germania e in Italia in questo giudizio. Un loro privilegio importante, quello del prestito su pegno, si trasformò spesso in odioso privilegio. Si tratta in particolare del cosiddetto diritto die Ricettatore, das Hehlerrecht, Judeus recipere poterit nomine pignoris omnia quesivi fuerint obligata quocumque nomine vocentur. Le motivazioni per l'odio nei confronti degli ebrei erano dunque numerose e davano l'avvio ad improvvise manifestazioni della plebe, in particolare quando il fanatismo religioso istigato dai predicatori nella loro polemica anti-ebraica trovava, io direi, locum minoris resistentiae. Giovanni de Capistrano, per esempio, durante gli anni 50 era in giro nelle città tedesche. A Ratisbona il caso Simone di Trento ebbe addirittura una conseguenza immediata quando 17 ebrei vennero imprigionati e torturati sotto accusa di omicidio rituale. Infine l'imperatore Federico III li liberò dalle mani dell'autorità municipale. Una cronaca ratisbonense commenta: «Nullum populum adeo defendit quem admodum hebreum, quantum in eo, allora in Federico, fuit, non sinebat occidi judeus quacumque ex causa. Questo suo atteggiamento dava ragione di rimprovero duro. Vulgo dicebato rex judiorum potius quam romanorum, propter familiaritatem quam ad judeus habere videatur. Per questo motivo Federico gode tuttora della reputazione di aver dimostrato sempre un atteggiamento favorevole agli ebrei, per non parlare di amicizia del suo medico Jakob Loans, dava piuttosto l'impressione che era proprio un consigliere, amico dell'imperatore. Bisogna tuttavia relativizzare questo giudizio, dato che l'imperatore in tutto ciò mirava prevalentemente ai propri interessi, al proprio sovrano possesso. È però vero che il suo atteggiamento rappresentava un'autentica eccezione. In generale la benevolenza dei governanti veniva meno, mentre il fanatismo religioso e l'animosità della plebe davano loro ormai l'opportunità di bandire gli ebrei dal proprio territorio. L'ebreo, con la sua azienda bancaria, non era più utile al principe, anzi l'espulsione sembrava qualche volta vantaggiosa. Nel complesso, l'effetto della lunga fila delle persecuzioni era però limitato e diminuito, poiché il corpo dell'impero era suddiviso e frantumato in innumerevoli domini. Per esempio, la sola odierna Baviera annoverava allora 84 diverse signorie. Cacciati da un dominio, gli ebrei si volgevano ad un altro signore più o meno vicino per essere ammessi nel suo territorio. Gli esiliati da Augusta si ricavano nei borghi vicini, sono tre, Kriegshaber, Pferse, Steppach per esempio. Quelli di Norimberga migravano anche nei dintorni oppure a Francoforte, una città che dovette ospitare in avvenire la comunità più numerosa della Germania, forse perché le venne risparmiata per caso tale espulsione. Quando gli ebrei di Ratisbona dovettero abbandonare la loro città, una parte di essi si sparse nel territorio bavarese, mentre un numero non indifferente cercò rifugio nel Veneto. Allora si recava verso il sud. Così il tardo medioevo significa significò un declino generale degli insediamenti ebraici. Mentre l'ebraismo sefardita perse del tutto la sua patria nella penisola iberica, anche quello ashkenazita soffrì riduzioni essenziali, ma rimase presente, mettendo già le radici di stanziamenti futuri, come abbiamo visto nell'esempio di Francoforte. Ci vuole ancora qualche tempo affinché nel periodo delle grandi e lunghe guerre, nel 600, apparisse all'orizzonte la nuova vocazione dell'ebreo, una vocazione che lo chiamò presso la corte del principe, con il compito di sistemare l'amministrazione finanziaria centrale del futuro Stato moderno. Vi ringrazio. Ci voleva questo sguardo sul mondo ebraico retrostante, sullo sfondo generale di tutta la situazione. Siamo grati al dottor Vielmetti di avercelo presentato. Mi pare che anche il Principato di Trento si proietta più su questo sfondo germanico, almeno in gran parte, benché le discussioni anche recenti locali sul fatto che gli ebrei di Trento siano stati un fatto interno al gruppo etnico tedesco in città, o un fatto invece che riguardava tedeschi e anche italiani entro la città, ritengo che sia tutt'altro che conchiuso. Lo ricordo solo come questione, forse su questa si può tornare nella discussione. Sarebbe stato il nostro desiderio che analoga esposizione si fosse dedicata alle comunità ebraiche dell'Alta Italia. Se nel convegno non è stato possibile includerlo, credo che però l'argomento rimane complementare, no? Ma certamente mi par di capire che Trento è in gran parte su questo sfondo così descritto. Grazie comunque.